Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Era un pomeriggio della fine d'aprile, caldo e umido. Il sole appariva e spariva fra i nuvoli fioccosi e pigri. L'acidia dello scirocco teneva Roma. Sul marciapiede della via Sistina egli scorse dinanzi a sé una signora che camminava lentamente verso la Trinità. Riconobbe Donna Maria Ferres. Guardò l'orologio. Erano infatti circa le 5. Mancavano pochi minuti all'ora abituale del ritrovo. Maria, certo, andava al Palazzo Zuccari. Egli affrettò il passo per raggiungerla. Quando fu dappresso la chiamò a nome, Maria. Ella ebbe un sussulto. Come qui? Io salivo da te. Sono le 5. Manca qualche minuto, io correvo ad aspettarti. Perdonami. Che hai? Sei molto pallido, tutto alterato. Di dove vieni? Ella corrugò i sopraccigli, fissandolo attraverso il velo. Dalla scuderia, rispose Andrea, sostenendo lo sguardo senza arrossire, come se egli non avesse più sangue. Un cavallo che m'è assai caro si è rovinato un ginocchio per colpa del jockey. Domenica non potrà quindi prender parte al derby. La cosa mi fa pena ed ira. Perdonami. Ho indugiato senza accorgermene. Ma alle 5 manca qualche minuto. Bene. Addio. Me ne vado. Erano sulla piazza della Trinità. Ella si soffermò per congedarsi, tendendogli la mano. Le durava ancora fra i sopraccigli una piega. In mezzo alla sua gran dolcezza, talvolta, ella aveva insofferenze quasi aspre e movimenti altieri che la trasfiguravano. No, Maria, vieni, sii dolce. Io vado su ad aspettarti. Tu arriva fino ai cancelli del Pincio e torna indietro. Vuoi? L'orologio della Trinità dei Monti suonò alle 5. Senti, soggiunse Andrea. Ella disse dopo una leggera esitazione. Verrò. Grazie. Ti amo. Ti amo. Si separarono. Donna Maria seguitò il suo cammino. Attraversò la piazza. Entrò nel viale arborato. Sul suo capo, a intervalli, lungo la muraglia, il soffio languido dello scirocco suscitava negli alberi verdi un mormore. Nel tepore umido dell'aria fluivano rare onde di profumo e svanivano. Da che ella aveva ceduto al desiderio di Andrea, il suo cuore si agitava di una felicità solcata di inquietudini profonde. Tutto il suo sangue cristiano s'accendeva alle voluttà della passione non mai provate e s'agghiacciava agli sbigottimenti della colpa. La sua passione era altissima, soverchiante, immensa. Ella era gelosa. La gelosia era il suo spasimo implacabile. La gelosia non pur del presente, ma del passato. Per quella crudeltà che le persone gelose hanno contro se stesse, ella avrebbe voluto leggere nella memoria di Andrea, scoprirne tutti i ricordi, vedere tutte le tracce segnate dalle antiche amanti, sapere, sapere. Anche quel giorno, all'improvviso sopraggiungere di Andrea, non aveva ella avuto in fondo a sé un istintivo moto di sospetto. Anzi, un pensiero lucido era le balenato nello spirito, il pensiero che Andrea venisse dalla casa di Lady Hetfield, dal Palazzo Barberini. Ella sapeva che Andrea era stato l'amante di quella donna, sapeva che quella donna si chiamava Elena, sapeva infine che egli doveva averla amata immensamente. Ella sentiva crescere l'affanno, un'oscura minaccia veniva a lei dalle cose. La occupò quel medesimo senso di timore che ella aveva già provato più di una volta. Sul suo spirito cristiano balenò il pensiero del castigo. E tuttavia ella rabbrividì nel più profondo del suo essere al pensiero che l'amante l'aspettava, al pensiero dei baci, delle carezze, delle folli parole. Ella sentì il suo sangue infiammarsi, la sua anima languire. Il brivido della passione vinse il brivido del timor divino. Ed ella si mosse verso la casa dell'amante, trepida, sconvolta, come se andasse a un primo ritrovo. «Oh, finalmente!» esclamò Andrea accogliendola fra le braccia, bevendole l'alito dalla bocca affannata. Poi prendendole una mano e premendosela al petto, sentimi il cuore. Se tu indugiavi ancora un minuto mi si rompeva. Ella mise la guancia nel luogo della mano. Egli le baciò la nuca. Senti, sì, mi parla. Che ti dice? Che non mi ami. Che ti dice? Ripeté il giovane mordendola alla nuca, impedendole di sollevarsi. Ella rise. Che mi ami. Una corazione profonda le suggeriva accenti di indefinibile malinconia. Pensare che tu non saprai mai tutto il mio amore. Pensare che io non saprò mai il tuo. Mi ami tu. Dimmelo, dimmelo sempre, 100 volte, 1000 volte, senza stancarti. Mi ami. Non lo sai, forse. Non lo so. E la proferì queste parole con una voce tanto sommessa che Andrea appena le udì. Maria. E la piegò il capo sul petto di lui in silenzio. Appoggiò la fronte quasi aspettando che gli parlasse, per ascoltarlo. Egli guardò quel povero capo reclinato sotto il peso del presentimento. Sentì il premer leggero di quella fronte nobile e triste sul suo petto, indurito dalla menzogna, fasciato di falsità. Una commozione angosciosa lo strinse, una misericordia umana di quella sofferenza umana gli chiuse la gola, e quel buon moto dell'anima si risolse in parole che mentivano, diede il tremito della sincerità a parole che mentivano. Tu non lo sai. Hai parlato piano. Il soffio ti si è spento sulle labbra. Tu non sai che io ti amo. E la rimaneva china, ascoltando, palpitando forte, riconoscendo, credendo, riconoscere nella voce commossa del giovine il suono vero della passione, l'inebriante suono che ella credeva inimitabile. Ed egli ne parlava quasi all'orecchio, nel silenzio della stanza, mettendole sul collo un soffio caldo, con pause più dolci delle parole. Avere un pensiero unico, assiduo di tutte l'ore, di tutti gli attimi, non concepire altra felicità che quella sovrumana, irraggiata dalla sola tua presenza, sull'essere mio, e credere in te soltanto, giurare in te soltanto, riporre in te soltanto la mia fede, la mia forza, il mio orgoglio, tutto il mio mondo, tutto quel che sogno e tutto quel che spero. E l'alzò la faccia rigata di lacrime, e gli tacque, arrestandole con le labbra le stille tiepide sulle gote. E la lacrimava e sorrideva, mettendogli le dita tremule nei capelli, smarritamente, singhiozzando, «Anima mia! Anima mia!» Egli la fece sedere, le si inginocchiò ai piedi, non lasciando di baciarla sulle palpebre. A un tratto ebbe un sussulto. Aveva sentito sulle labbra palpitare rapidamente i lunghi cigli di lei, a similitudine di un'ala irrequieta. Era una carezza strana che dava un piacere insostenibile. Era una carezza che Elena un tempo soleva fare ridendo, più volte di seguito, costringendola avanti al piccolo spasimo nervoso della vellicazione. E Maria l'aveva presa da lui, e spesso egli, sotto una tal carezza, aveva potuto evocare l'immagine dell'altra. Al sussulto Maria sorrise, e come le indugiava ancora una lacrima lucida tra i cigli, ella disse «Bevi anche questa». E come egli beve, ella rise, inconsapevole. Ella esciva dal pianto, quasi lieta, rassicurata, piena di grazie. «Ti farò il tè», disse. «No, rimani qui, seduta». Egli s'accendeva vedendola sul divano tra i cuscini. Avvenne nel suo spirito una subita sovrapposizione dell'immagine di Elena. «Lasciami alzare», pregò Maria, liberando il busto da una stretta. «Voglio che tu beva il mio tè. Sentirai. Il profumo ti arriverà all'anima». Un profumo acuto si spandeva nell'aria, col vapore. Andrea l'aspirò, poi disse, chiudendo gli occhi, rovesciando indietro il capo, «Baciami». E appena ebbe il contatto delle labbra, trasalì, tanto forte che Maria ne fu sorpresa. Ella versò in una tazza la bevanda e gliela offerse, con un sorriso misterioso. «Vada, c'è un filtro». Egli rifiutò l'offerta. «Non voglio bere a quella tazza». «Perché?» «Dammi tu da bere». «Ma come?» «Così. Prendi un sorso e non inghiottire. Scotta ancora troppo». Ella rideva a quel capriccio dell'amante. Egli era un po' convulso, pallidissimo, con lo sguardo alterato. Aspettarono che il tè si freddasse. Ad ogni momento Maria accostava le labbra all'orlo della tazza per provare, poi rideva di un piccolo riso fresco che non pareva suo. Ora si può bere, annunziò. Ora prendi un bel sorso, così. E la teneva le labbra serrate per contenere il sorso, ma le ridevano i grandi occhi a cui le lacrime recenti avevano dato maggior fulgore. Ora versa, a poco, e gli trasse nel bacio suggento tutto il sorso. Come sentiva mancarsi il respiro, ella sollecitava il lento bevitore stringendogli le tempie. «Dio mio, tu mi volevi soffocare!» S'abbandonò sul cuscino quasi per riposarsi, languida, felice. Che sapore aveva! Tu m'hai bevuta anche l'anima. Sono tutta vuota. Egli era rimasto pensoso, con lo sguardo fisso. «A che pensi?» gli chiese Maria di nuovo sollevandosi a un tratto, posandogli un dito nel mezzo della fronte, quasi per fermare il pensiero invisibile. «A nulla», rispose, «non pensavo. Seguivo dentro di me gli effetti del filtro». Allora anche ella volle provare. Bevve da lui con delizia. Poi esclamò, premendosi una mano sul cuore e mettendo un lungo respiro, «Quanto mi piace!» Andrea tremò. Non era quello lo stesso accento di Elena nella sera della dedizione. Non erano le stesse parole. Egli le guardava la bocca. «Ripeti». «Che cosa?» «Quello che hai detto». «Perché?» «È una parola tanto dolce quando tu la pronunzi. Tu non puoi intendere, ripeti». E la sorrideva, inconsapevole, un po' turbata dallo sguardo singolare dell'amante, quasi timida. «Ebbene, mi piace». «Ed io?» «Come?» «Ed io a te?» E la perplessa guardava l'amante che le si torceva ai piedi, convulso nell'aspettazione della parola che gli voleva strapparle. «Ed io?» «Ah, tu mi piaci!» «Così, così, ripeti, ancora!» E la consentiva, inconsapevole. Egli provava uno spasimo ed una voluttà indefinibili. «Perché chiudi gli occhi?» «Per morire». Nell'ombra egli la distese con un moto repentino. Le strinse il capo, coprendole di baci la faccia. Il suo ardore era quasi iroso. Egli immaginava di stringere il capo dell'altra e immaginava quel capo macchiato dalle labbra del marito e non ne aveva ribrezzo, ma ne aveva anzi un desiderio più selvaggio. Dai fondi più bassi dell'istinto gli risalivano nella coscienza tutte le torbide sensazioni avute in cospetto di quell'uomo. Gli risalivano al cuore tutte le oscenità e le brutture come un'onda di fango rimescolata. E tutte quelle vili cose passavano nei baci sulle guance, sulla fronte, sui capelli, sul collo, sulla bocca di Maria. «No, lasciami!» Ella gridò liberandosi dalla stretta con uno sforzo e corse verso la tavola del tè ad accendere le candele. La campana della Trinità dei Monti cominciò a suonare. «Dio mio, com'è tardi! Aiutami a mettermi il mantello!» fece la povera creatura tornando verso Andrea. Egli la strinse di nuovo tra le braccia, la stese, la coprì di baci furiosi, ciecamente, perdutamente, con un divorante ardore, senza parlare, soffocandole il gemito sulla bocca, soffocando sulla bocca di lei un impeto che gli veniva quasi invincibile di gridare il nome di Elena. E sul corpo della inconsapevole consumò l'orribile sacrilegio. La mattina del 20 maggio Andrea Sperelli risaliva il corso inondato dal sole quando si sentì chiamare innanzi al portone del circolo. Stava sul marciapiede un crocchio di gentiluomini e amici, godendo il passaggio delle signore e malignando. C'era Giulio Musellaro con Ludovico Barbarisi, con il duca di Grimiti, con Galeazzo Secinaro. C'era Gino Bomminaco. C'era qualche altro. «Non sai il fatto di stanotte?» gli domandò il Barbarisi. «No, quale fatto?» «Don Manuel Ferres, il ministro del Guatemala. Ebbene, è stato sorpreso in pieno gioco mentre barava». Lo Sperelli si dominò